microfoni di Radio Onda Rossa, per questa che ormai è una lunghissima diretta dalla Val di Susa e sulla TAV, per la lotta no TAV, e visto che stavamo parlando di Firenze abbiamo in corrispondenza un compagno che ci racconterà insomma le questioni della TAV appunto nel capoluogo toscano. Pronto, ci sei? Sì, buonasera a tutti. Ciao. E niente, stavamo appunto accennando prima alla questione del tunnel che, di cui si discute a Firenze. Sì, è uno dei tanti pezzettini, dei grossi pezzettini di opere stupide diffuso in Italia e sotto attraversamento dell'alta velocità. Praticamente le linee dell'alta velocità sono state progettate male con i piedi, sono state semplicemente tirate delle righe dai signori del cemento e del tondino e non hanno pensato assolutamente a come risolvere i problemi, i veri problemi di trasporto, perché i problemi di trasporto oggi non sono la carenza di strade, di autostrade o di ferrovie, ma quella dei problemi sono i nodi cittadini, è l'ingorgo delle città, è lì che è il problema. Quindi arrivano queste linee ad alta velocità assolutamente abbastanza aliene dalla necessità delle città e a quel punto si dice, ci si domanda come si fa a attraversarle. C'è stato un primo progetto, che semplicissimo progetto, di potenziamento delle linee già esistenti che costava pochissimo. Poi quando gli amministratori toscani, qui domina naturalmente il PD, si sono accorti che a Bologna facevano un sottoattraversamento con la scusa del rumore, hanno voluto sottoattraversare la città anche loro. Naturalmente i costi di questa cosa qua saranno all'incirca 10 volte quelli dell'attraversamento in superficie, ma questo non importa, anzi questo è l'importante. Comunque proprio ci sono testimonianze di chi ha fatto le valutazioni di costi benefici, che dice come la scelta di fare un sottoattraversamento sia dovuta proprio agli alti costi, che avrebbero garantito naturalmente alti profitti. Chi doveva vincere questa gara erano le cooperative. Infatti questa gara, strano, se l'è assicurata la COP7. Naturalmente io non so, se non mi voglio sediare su particolari tecnici, è sostanzialmente inutile. Se viaggiate voi con l'alta velocità o con la bassa velocità, voi passate da Firenze e non ci sono problemi di strozzature a Firenze attualmente. I problemi sono altrove, sono nella rete intorno, in altre cose. L'alta velocità passa tranquillamente da Firenze e quindi non si capisce cosa si va a spendere. Vi do soltanto alcuni numeri perché credo siano estremamente scandalosi. Questo progetto, si dice, lo dicono tutti, allora, intanto si è aggiudicata la gara questa COP7 di Reggio Emilia con un ribasso nella gara del 24%, cioè ditemi voi se è un ribasso decente, 24%. Se l'ha aggiudicata per 700 milioni, dopo pochi mesi che se l'ha aggiudicata per 700 milioni tutti hanno cominciato a dire che sarebbe costata 1,5 miliardi. Come ha fatto a raddoppiare in un balletto non lo sappiamo, ma comunque ce lo immaginiamo. Ma queste sono soltanto le previsioni, perché per realizzare questi 7 chilometri di doppia galleria, e una galleria sotterranea, una galleria sottoterra, insomma esce anche fuori, ma insomma è scavata a 25 metri sotto il livello della strada, non sappiamo quanto andrà alla fine a costare. Insomma, si parla di 1,5 miliardi, ma probabilmente saranno 3, saranno anche di più. Tutti sapete che le linee TAV in Italia sono venute a costare circa 5 volte, 5 ma anche 6 volte i bilanci iniziali. La Firenze-Bologna è costata circa 7 volte il bilancio iniziale, invece di 1 miliardo è costata quasi 7 miliardi, che si sono cifra la mano. Quindi vi rendete conto dell'utilità. Se a questa affianchiamo il problema che, come in tutta Italia, perché non cambia mai nulla, il servizio dei pendolari è a livelli veramente indecenti, cioè buttare miliardi in questa maniera è una cosa vergognosa. Ma evidentemente la politica, ecco qui sarebbe un altro capitolo, la politica non esiste. Ed è disperante, ed è veramente disperante. Non, anche il quadro politico regionale vede naturalmente il governo del PD con la presenza di SEL e la Federazione della Sinistra, ma sostanzialmente nessuno vuole toccare questo sottoattraversamento perché c'è il pericolo che cada la giunta. Insomma, chiaramente ce lo disse qualche mese fa Pancio Pardi, questo progetto è stupido, ma non faremo cadere la giunta per un progetto del genere. Ora io mi domando se non si fa cadere la giunta per qualche miliardo di euro. Poi se non si fa cadere la giunta per la sua strada tirrenica che è qualche miliardo di euro, se non si fa cadere la giunta per gli inceneritori con cui ci vogliono riempire, vorrei sapere per che cosa faremo cadere la giunta. E qui proprio ve lo chiedo a voi, insomma, se c'è un dibattito, cioè che cos'è questa sinistra. Noi un po' la risposta ce la siamo data, ma insomma ci vuole poca fantasia. Questo è il quadro fiorentino. Senti una cosa, per concludere il quadro fiorentino, ieri anche a Firenze c'è stato un presidio in solidarietà con la Val di Susa, contro gli sgomberi, e in solidarietà con Luca. Ci vuoi un po' dire com'è andato, quali pezzi di movimento hanno partecipato? Bene, un presidio, sono stati circa 200 persone, l'abbiamo fatto davanti alla prefettura perché, insomma, per chiedere al governo che cambi strada, perché non è più possibile questa strada. E poi abbiamo fatto un corteo nella città, in mezzo alla città, fino ad arrivare alla stazione di Santa Maria Novella, la stazione ferroviaria principale di Firenze. È andato tutto abbastanza bene, non ci sono problemi, e la sensibilità delle persone sta aumentando molto su questo tema. Cioè, ecco, una cosa a cui ci tengo, il problema oggi si dice NOTAV, ma proprio su input proprio della Val di Susa, io credo si debba cominciare a parlare di no alle grandi opere inutili. In Val di Susa ad agosto hanno fatto un forum sulle grandi opere inutili e io credo sia importante questo. Il sistema TAV è stato il primo grosso investimento pubblico in opere inutili. Dopo TAV ne sono venuti tanti, ne stanno venendo tantissimi altri. Cioè, se tenete conto che le opere messe in cantiere, ancora neanche iniziate, ma messe in cantiere con la legge obiettivo, sono per 370 miliardi, oltre 370 miliardi, cioè in un periodo in cui si parla del debito e si continua a parlare di grandi infrastrutture in questa maniera, è una follia pura. In questo, se mi permettete, vi voglio dire, c'è un'iniziativa che noi riteniamo molto importante, certo, e ce lo stanno confermando anche della Val di Susa, che per loro credo si possa essere un eco importante. Qui a Firenze il prossimo sabato e domenica, il 3 e 4 marzo, stiamo organizzando un forum sulle grandi opere inutili, proprio per cominciare a discutere di questo problema. E abbiamo tre sessioni, tanto per dirle: una dedicata al tema, alla crisi economica e al lavoro, perché le grandi opere inutili non creano lavoro, lo distruggono, perché è proprio il contrario di quello che si dice. Naturalmente generano debito, e quindi questo è un tema. Poi tutta la normativa folle che consente la cementificazione del territorio, e l'altro è il furto di democrazia che rappresentano le grandi opere e soprattutto le modalità con cui le grandi opere sono realizzate. In questo non potremo mai finire di essere grati alla Val di Susa, a questa popolazione che ha fatto venire un problema che non è valsusino, è italiano, arriva fino a Capopassero e a Pantelleria, è un'anomalia ormai italiana. Quello delle grandi opere inutili è un cancro, insieme alle privatizzazioni del servizio è uno strumento con cui ci stanno mettendo in mutande. Senti, ascolta, ci puoi dire dove si tiene questo forum? Questo meeting si tiene proprio vicino alla stazione ferroviaria, si trova nella saletta, nel saloncino del dopolavoro ferroviario di Firenze, a Santa Maria Novella, è vicino al binario 1 quando uno arriva. E poi, se qualcuno fosse interessato, basta cerchi con Google NOTAV Firenze, NOTAV Firenze tutto attaccato, ci trova il nostro sito e vede le notizie più dettagliate, ecco. Bene, e noi ti ringraziamo, se non vuoi aggiungere ancora qualcosa, poi magari ci sentiremo, insomma, nei prossimi giorni, anche per sapere, insomma, un po' di quello che è stato discusso in questo forum e per tenerci aggiornati, insomma, sulle lotte NOTAV che continueranno, supponiamo, insomma, a essere vive a Firenze come nelle altre città. Benissimo, un saluto a tutti, e come sarà dura, speriamo sia dura per loro. Ciao, grazie. Ciao.